La manifestazione del 17 rappresenta una tappa di un processo di convergenza tra molte realtà cittadine, comitati, associazioni, collettivi che si occupano di conflitti climatici in qualche modo, no? Quindi la lista che abbiamo pubblicato nell'evento. Questa manifestazione appunto vuole affermare una novità in città, e cioè che le reti, i comitati si parlano, possono fare delle cose insieme e che chiedono soprattutto una svolta radicale, o meglio una vera e propria rivoluzione ambientale, che è anche il titolo della manifestazione. Questo fa capire quanto, come dire, il nostro approccio sia radicale, cioè noi non abbiamo più tempo per greenwashing, azioni simboliche, azioni tese solamente a riscuotere consenso. Noi abbiamo bisogno di misure concrete per costruire un futuro in questa città e anche sul nostro pianeta. Bologna può essere la città dove sperimentare anche delle azioni all'avanguardia, noi crediamo, però appunto dobbiamo anche svelare quali sono le contraddizioni che ci sono in questa città: cementificazione, speculazione, ex aree militari destinate al mattone, disboscamento, il passante che quindi aumenterà l'inquinamento atmosferico in città, c'è la questione dell'aeroporto, un aeroporto in crisi che però comunque sappiamo ha creato molti problemi in questa città, soprattutto nei quartieri della Pescarola, Borgo Panigale. Quindi noi crediamo che ci sia una discussione su come rivedere appunto la presenza dell'aeroporto in città, che è rumoroso, inquinante e in questo momento anche in difficoltà. Lo stesso vale per lo spreco del People Mover, sono soldi pubblici che sono stati gettati all'ortica in qualche modo. Nel frattempo abbiamo visto l'aumento del costo dell'autobus, ad esempio, e queste sono tutte cose che fanno parte di questa piattaforma. Non ultima anche la costruzione di 7 nuovi distributori di carburante, ai quali siamo contrari. E poi c'è anche una questione che abbiamo posto come quinto punto, diciamo così, dei nostri 5 punti di rivendicazione, che è quella dell'utilizzo dei soldi dei recovery fund, cioè i fondi che saranno stanziati appunto per l'emergenza Covid, ai fini, come dire, della ristrutturazione economica in qualche modo dell'Europa. Noi crediamo che debbano essere destinati comunque in una percentuale importante, una parte importante, all'abbattimento delle emissioni e all'abbattimento dell'inquinamento atmosferico. Questa è un'occasione che non possiamo perdere se vogliamo appunto costruire un futuro su questo pianeta. Come sarà articolato? La manifestazione partirà per il 20 settembre, passerà per via dei Mille, salirà per via Marconi, gireremo su via Ugo Bassi e concluderemo in Piazza Maggiore sotto il comune di Bologna, che è anche evidentemente la nostra controparte. Ci saranno azioni comunicative, anche alcune sorprese, diciamo. Stiamo lavorando a comunque elementi coreografici e comunicativi che porteranno all'attenzione della cittadinanza i temi che abbiamo inserito nell'appello. Secondo voi quanto la pandemia e le norme anti-Covid freneranno e condizioneranno la partecipazione dei cittadini? Ma è chiaro che in questo momento scendere in piazza è complesso, però non possiamo rinunciare all'elemento, come dire, della contestazione democratica, perché richiudersi in casa naturalmente non può essere la soluzione. Questo significa al contempo però rispettare le norme di distanziamento fisico, quindi la manifestazione si svolgerà naturalmente in sicurezza, distanziati, tutti indosseranno le mascherine, faremo in modo che tutto questo avvenga. Però ecco, noi crediamo che comunque si possa anche durante questa pandemia scendere in piazza, essere in tante e in tanti. Non possiamo scoraggiarci, perché comunque questi temi che portiamo avanti sono decisivi per il nostro futuro. Non basta, come è stato fatto anche in questi mesi di pandemia, che scienziati, politici si interrogassero a parole su quanto il nostro modello di sviluppo sia insostenibile, e poi dopo, come dire, a queste domande bisogna dare delle risposte. Per avere delle risposte noi crediamo che bisogna lottare per averle. Non crediamo che le cose ci vengano regalate o comunque calate dall'alto. Sappiamo benissimo qual è stato il processo di sviluppo che ci ha portato fino a qui, e anche le politiche del comune di Bologna sbagliate che ci hanno portato fino a qui. Bologna è una città inquinata, lo sappiamo benissimo, sono in corso dei progetti che sono fortemente negativi e che vanno da una direzione totalmente diversa da quella che invece è necessaria. Quindi una città più green, sostenibile, vivibile, meno inquinata, questo è quello che crediamo, e noi siamo convinti che comunque saremo in tanti in piazza sabato. Quali sono i rapporti con la rete emergenza climatica e ambientale dell'Emilia Romagna e con le loro argomentazioni rispetto al patto per il lavoro e per il clima? Ma alcune delle realtà che aderiscono a questa manifestazione aderiscono anche alla rete regionale. Naturalmente entrambe sono due cose che sono nate da poco, quindi, come dire, dovremo mettere a verifica questi percorsi attraverso le iniziative che saranno messe in campo. Noi sicuramente supportiamo un elemento fondamentale che crediamo che ci sia, no, la contraddizione della regione Emilia-Romagna, cioè siamo contrari allo stoccaggio della CO2 promosso da Eni a Ravenna e crediamo che l'Emilia-Romagna stia facendo un grosso errore a permettere che venga fatto appunto il centro di stoccaggio più grande del mondo, perché di questo si tratta. Quindi si dà ancora la possibilità ad Eni di mettere in campo delle azioni negative che gli scienziati criticano fortemente, perché lo stoccaggio della CO2 non è una risposta. Sappiamo da esperimenti finanziati dall'Unione Europea degli anni scorsi che sono stati fermati proprio perché non è una soluzione. Pertanto l'Emilia Romagna è un altro terreno di scontro, credo, dal punto di vista climatico, e pensare di dare una svolta green piantando 4,5 milioni di alberi quando ne nascono spontaneamente 6,5 milioni all'anno nel territorio regionale è una presa in giro. Cioè noi non possiamo pensare che cavarcela con la simbologia o comunque piantare alberi mentre si continua e anzi si inquina ancora di più. Cioè noi non possiamo inquinare di più e piantare degli alberi come risposta, oppure inquinare di più e stoccare la CO2 come risposta. Noi dobbiamo ridurre le emissioni del 50% nel 2030 e del 100% nel 2050. Questi sono gli accordi internazionali che sono stati presi e questo è quello che noi pretendiamo dalla nostra regione.